A bordo campo di Dario Ricci. Roma, Roma, Roma, cuore desta città, unico grande amore de tanta e tanta gente che fai sospirare. Eh sì, lo sentiamo in sottofondo, l'inno della Roma, l'inno della magica, direbbero a testaccio e dintorni, lanciata verso la conquista dello scudetto. Staremo a vedere come finirà questa volata con l'Inter, ma intanto oggi parliamo del tifo giallorosso, della Roma che emigra veramente in una città particolare, perché a Pontida, il cuore della Lega Nord, il cuore di quella che molti definiscono la Padania, c'è un tifoso d'eccezione della Roma, il sindaco di Pontida, Pierguido Vanalli, sindaco, deputato della Lega, bergamasco e tifoso giallorosso. Benvenuto sindaco a bordo campo, e, insomma, ma veramente è un tifoso della Roma il sindaco di Pontida? Sì, buonasera a tutti. È vero, sì, sono da 30 anni tifoso della Roma, quindi non posso che in questi giorni essere sempre più in tensione per la volata scudetto. Beh, sindaco però, leghista, sindaco di Pontida appunto, che è la capitale ideale e anche politica della Lega, come si fa? Ci spieghi un po' come si arriva al tifo giallorosso, perché è veramente clamoroso e adesso piano piano analizzeremo tutti i paradossi di questo suo tifo. No, ma non è che ci sono dei paradossi o delle cose strane. Quando ero un ragazzino mio zio tifava Milan, io un po' lo seguivo, andavo a vedere la partite con lui, poi Lido mi è passato alla Roma nel 79 e erano tutti juventini attorno a me e ho pensato bene di seguire Lido e cominciare a tifare per la Roma, fare un po' di bagar con gli juventini, e da allora ho cominciato a portare anche bene, perché negli anni 80 la Roma ha fatto quello che ha fatto, insomma, e poi sono rimasto romanista, non è che a parte Emilio Fede si cambi così quando gira il vento. E beh, insomma, cominciava a tirare qualche stoccata agli avversari calcistici, fu quindi infatuazione, primo amore per il grande barone del calcio italiano. Sì, effettivamente è vero, Lidl è stato veramente un grandissimo personaggio e quindi non poteva, con suo modo poi di far giocare le squadre, non poteva non appassionare. Eh sì, la grande Roma di Bartolomei, di Falcao, di Pruzzo, di Bruno Conti, campione d'Italia nell'83, quasi campione d'Europa, lo ricordiamo l'anno successivo in quella maledetta finale ai calci di rigore persa all'Olimpico con Liverpool, era anche la Roma che duellava con la Juventus anche sotto il profilo dialettico, no? La Roma del grande presidente Dino Viola, la Roma di quel famigerato gol di Turone, no? Sono nati un po' in quel periodo lì i vari processi, mica processi, anche esagerando su questa rivalità, ma comunque sfruttandola per fare parecchie trasmissioni, e poi da lì ne sono seguite tantissime. Difficile di fare Roma in quegli anni, no? Perché comunque era un calcio ancora egemonizzato dalle grandi del nord. Sì, quello è vero, però ripeto, a me piaceva il gioco, piaceva comunque anche essere in contrapposizione con tutti gli altri, che erano juventini, interisti, atalantini, giustamente. E quindi era anche divertente, e anche per gli altri era di stimolo avere qualcuno con cui prendersela, insomma. Ecco, ma partecipava anche alle trasferte? No, io andavo a vederla, sono andato a Milano e a Bergamo quando giocava contro l'Atalanta o contro il Milan e l'Inter. L'ho sempre vista in zona. In maglietta giallorossa? No, avevo una bandierina che ho comprato nell'80-81. A Gubbio, perché dalle mie parti non c'erano le bandiere della Roma, l'ho trovata lì un giorno che abbiamo fatto un giro con l'oratorio, l'ho comprata perché l'ho trovata proprio a Gubbio, perché da altre parti non riuscivo a trovarla. Senta, ma con lei tra l'altro adesso è anche deputato, lavora quindi anche a Roma, con questa storia della Roma ladrona come concilia questo tifo? È un altro discorso quello. La Roma ladrona, politicamente parlando, è un concetto che penso che ormai sia stato più che spiegato da tutti gli esponenti leghisti, cosa significa e cosa vuol dire, ed è un aspetto, l'aspetto calcistico è diverso. Adesso essere qui, a dire la verità, mi ha consentito di andare qualche volta allo stadio a vederla giocare in casa, quindi è stato un vantaggio sotto quell'aspetto. Magari cambia anche questo concetto relativo alla città, no? Ma c'è un aspetto, no, allora, relativamente alla città, Roma Ladrona non è mai centrata niente, è non la mentalità, è l'indicazione politica dell'egemonia, della mentalità centralista contro la quale noi ci siamo sempre battuti, che faceva dire Roma Ladrona. Sull'aspetto calcistico ho avuto modo di constatare che i romanisti romani sono veramente esagerati nel loro tifo, perché forse appunto io venendo da fuori la vedo con un attimino più di distacco. Capisco che per un romanista di Roma, insomma, avere la squadra che sta per vincere o comunque se la contende con l'altra squadra della capitale è una cosa molto più che sentita. Insomma, certo, vista dal vivo il tifo giallorosso fa impressione, no? Respirarlo per le strade di Trastevere o Testaccio. Ma qualunque sali sul taxi, vai da qualche parte, si vede, si sente che esiste questa cosa qui. Io da Bergamo non è che avevo questo contatto e quindi questa sensazione, potevo immaginare, però effettivamente qui è una roba esagerata. All'inizio del campionato, dopo 3 giornate, sembrava la fine del mondo. E quando invece dicevo non preoccupatevi che ce la faremo uguale. Senta, so anche che lei ha festeggiato in modo del tutto particolare quello che era stato lo scudetto del 2001, no? Lo scudetto di Totti per eccellenza. Quello l'ho festeggiato andando a vedere una partita di calcio a Pontina, un torneo serale, con la maglietta di Totti. Ah, bella, bella provocazione. Sì, infatti me l'hanno detto di tutti i colori, anche lo speaker della manifestazione mi ha richiamato per nome e cognome invitandomi a togliere la maglietta, non farlo scemo. No, era una cosa comunque, diciamo così, goliardica, quindi nessun problema. Senta, invece il Senatur che le dice? Bossi, il Senatur ogni tanto mi prende in giro, sì, quando abbiamo occasione di parlare di queste cose mi dice: guarda te, se proprio devi fare questa roba qua non capisci niente. Anche perché proprio a trovarsi in casa a Pontida un bergamasco romanista, penso che lei sia proprio una mosca bianca o una pecora nera a seconda dei punti di vista. Beh, non, è anche possibile che ce ne fosse un altro, perché sindaco di Pontida ce n'è uno alla volta, quindi non potevamo al minimo essere in due. Se sono qui non è perché sicuramente tifo per la Roma, voglio dire, no, però è una cosa accessoria che almeno dà ancora la possibilità ai miei colleghi leghisti di prendersela con qualcuno anche calcisticamente. Roma e il Nord spesso anche divisi dal punto di vista sportivo, no? Ad esempio avrà seguito sicuramente tutte le recenti polemiche in merito al Gran Premio di Roma, che potrebbe far ombra al Gran Premio di Monza di Formula 1. Dal suo punto di vista, visto che il suo cuore è un po' scisso a metà sportivamente parlando, come valuta questa vicenda? Ecco, questo forse assume un aspetto quasi di provocazione politica, al contrario, no? Visto che c'è il Gran Premio di Monza, allora per non essere da meno dobbiamo avere anche il Gran Premio di Roma. Insomma, voglio dire, c'è il Gran Premio d'Italia che viene fatto a Monza, presumo che sia più che sufficiente avere quello. Ci sono già altri circuiti in giro per l'Italia, se proprio si volesse fare un ulteriore Gran Premio come si faceva quello di Europa, se non mi sbaglio. Penso che sia niente di più che un sogno, un auspicio, un qualcosa della politica romana per mettersi in contrapposizione con Monza, ma dubito anche che sia poi fattibile nel senso pratico nella città di Roma questo Gran Premio, insomma, se non a tipo come era già successo anni fa, forse la Ferrari aveva fatto delle passeggiate con la sua macchina nel centro cittadino a modi di festeggiamento di qualcosa. Invece Renzo Bossi recentemente ha auspicato il prima possibile, o almeno in un futuro prossimo, una sfida tra la nazionale di calcio italiana e la nazionale padana. Siamo a livello di una boutade o dobbiamo crederci veramente? Beh, intanto la nazionale padana un paio di mondiali delle nazioni non riconosciute le ha vinte negli ultimi 2 anni. C'è un gruppo di giocatori, di cui alcuni ha giocato anche in Serie A tempo dietro, qualcuno sta giocando adesso in altre categorie, non sono poi messi così male atleticamente parlando. Naturalmente è una cosa molto non paragonabile, voglio dire, però perché no, ci potrebbe essere un amichevole, diciamo così, prima o poi. Staremo a vedere. Sindaco Vanalli, ci tolga una curiosità, dovesse arrivare questo scudetto, che fa? Va lei a Trigoria o aspetta o invita Totti a Pontida? Ma no, ma guardi, sinceramente, ecco, sono uno abbastanza, non dico, cioè distaccato, nel senso che la vivo non così intensamente come dicevo i romani. Sarò felicissimo se la Roma vince lo scudetto, perché appunto è la squadra alla quale, di cui tifo, faccio il tifo. Spero di essere piuttosto a Verona a vedere l'ultima giornata, una vittoria col Chievo che sancisca questo scudetto. Quello sì, ho intenzione di esserci. Poi dopo il resto, una volta vinto, si pensa a quello dell'anno dopo. Poi vinto lo scudetto magari si prende un'ampolla con l'acqua del Tevere. C'ho idea di no, perché mi sa che dopo non è poi così proprio precisa come quella del Po a livello di inquinamento. Però neanche il Po è tanto indietro recentemente. Però dalle sorgenti è forse meglio. Insomma, una bella gara direi. Allora, Pier Guido Vanalli, sindaco di Pontida, in bocca al lupo per l'attività politica e in bocca al lupo per la corsa del campionato, e grazie di essere stato ospite di A Bordo Campo. È l'unica occasione in cui non bisogna dire crepi il lupo, questo. Soprattutto crepi la lupa. A Bordo Campo. Siamo piccoli, ma cresceremo. Bambini e pallavolo protagonisti di A Bordo Campo oggi. L'hanno presa davvero sul serio la questione dei piccoli tifosi a Novara, dove l'Asistel è una delle squadre di vertice del pallavolo, del campionato di pallavolo femminile italiana, tanto da mettere insieme un progetto che potremmo definire asilo nido a Bordo Campo. Praticamente la società piemontese si è inventata un piccolo asilo nido dove i genitori che vanno al Palazzo dello Sport per seguire le partite dell'Asistel possono lasciare i loro piccoli bambini e possono quindi godersi la partita tenendo d'occhio quello che fanno i loro cuccioli e al tempo stesso poi coinvolgendoli nel tifo. Ne parliamo oggi con Massimo De Stefano, direttore generale dell'Asistel Novara e ideatore del progetto Asilo Nido a Bordo Campo. Dottor De Stefano, allora come è nato questo progetto? Era un'idea che insieme al mio staff avevamo in mente da un po' di anni. Solo la struttura dove prima disputavamo le gare di campionato era un po' più piccola e non ci dava la possibilità. 2 anni fa ci siamo trasferiti in questa nuova struttura, lo Sporting Palace di Novara, che ha degli spazi molto ampi, e abbiamo realizzato appunto questo progetto, questo pseudo baby parking o spazio gioco, chiamiamolo così, per i bambini, proprio dall'idea che le famiglie poter venire lì alla partita, e se avevano dei bambini piccoli, c'è sempre il problema dove lasciarli a casa o meno, invece possono venire lì, lasciarci i loro bambini che giocano, si divertono e loro si guardano tranquillamente la partita. E devo dire che è stata un'idea apprezzatissima, perché mediamente alle partite abbiamo dai 50 ai 60 bambini che vengono lì e a fine partita sono loro che non vogliono più andare via e non i genitori. È stata una cosa simpatica. Quindi a fine partita invasione di campo garantita da parte di questa sessantina di piccoli fan? Sì, loro addirittura, ci sono alcuni che aiutano a smontare le attrezzature, insomma si divertono, sono diventati. Ma è un po' il concetto che di portare al palazzetto non solo il classico tifoso appassionato, ma proprio tutta la famiglia, fargli passare una bella giornata. Poi abbiamo anche dei ristoranti convenzionati, quindi uno viene lì pomeriggio, il bambino si diverte, loro guardano la partita e poi vanno a mangiare insieme. Insomma, un po' il concetto di portare la famiglia a vedere lo sport. Durante la partita come vengono gestiti questi bambini? Ci sono degli animatori, degli accompagnatori? Sì, ci sono animatori, più che altro sono ragazze che lavorano già durante la settimana presso strutture che fanno lo stesso tipo di attività. Con lì sono una decina di animatrici e anche di maestre di asilo, e ci sono poi praticare a questi bambini varie attività, dai giochi normali anche al disegno, a dei piccoli concorsi proprio per esempio sul disegno o altre cose. Insomma, lo spazio giochi è attrezzato sia proprio per giochi classici che anche per delle attività stato didattiche. Ecco, la reazione della tifoseria, perché è un progetto che non esito a dire innovativo nel nostro sport. No, molto, molto positiva. Infatti all'inizio, la prima partita, ma da subito poi appena hanno capito, hanno verificato, anche perché lo spazio giochi si vede dalle tribune del palazzetto, quindi anche la mamma e il papà che hanno lasciato lì il bambino mentre durante la partita ogni tanto possono dare un'occhiata al bambino cosa fa, e quindi è stata davvero molto positiva. E ogni tanto capita anche che dei dirigenti delle squadre avversarie, che semmai arrivano lì con la famiglia, ci lasciano il bambino lì, e ci sono anche i figli di un paio di quest'anno di una giocatrice, come c'era anche dell'anno scorso, perché abbiamo una nostra giocatrice che è una bimba ed è una delle affezionate nostre iscritte, diciamo così. E allora sentiamola l'opinione di una mamma tifosa di Novara, Tania Lizzappi, due bimbi e tutta la famiglia al Palazzo dello Sport di Novara. Ecco Tania, benvenuta a bordo campo, ci spieghi un po' come vi organizzate la domenica della partita al Palazzo dello Sport? Ma noi ci organizziamo, siamo organizzati ottimamente, noi arriviamo, i miei bambini, due bimbi, un maschietto e una femminuccia di 5 anni e 2 anni e mezzo, tolto il giubbotto, corrono in quest'area gioco dove sono presenti giochi didattici e non, colori, tanti fogli per poter disegnare e stare in compagnia, con tavolini, sedie, ottime ragazze, bravissime ragazze disponibili, volonterose e volontarie, soprattutto sottolineiamolo, che insomma fanno giocare questi bambini mentre noi mamme tifose seguiamo con accanimento la nostra partita e diamo comunque supporto alle nostre ragazze, quindi è sicuramente un vantaggio enorme per noi mamme, che possiamo quindi distogliere lo sguardo dai nostri cuccioli e dedicarci invece alla partita. Il tutto, Tania, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello del biglietto, vero? Assolutamente, assolutamente, è gratuito il servizio che Assistel offre ai suoi tifosi, in particolare alle mamme e ai papà tifosi, è assolutamente gratuito, ne possono usufruire tutti i bimbi, perché come dicevo il mio piccolo ha 2 anni e mezzo, quindi ne usufruisce anche lui, e assolutamente a disposizione di tutti, insomma, quindi è assolutamente un vantaggio per chi vuole vedere una partita di pallavolo, è una bella partita. Sì, sicuramente. Tra l'altro la pallavolo è passione condivisa in famiglia, vero? Assolutamente, da tutti, da mamma, da papà e insomma tra un po', dato che comunque piccolissimi già frequentavano palazzetti dello sport, si spera che insomma anche i miei figli possano dedicarsi a questo sport o a qualsiasi altro sport, in particolare a questo, perché mamma e papà lo seguono con grande passione, ecco. Tra l'altro mi diceva che intanto staremo a vedere se poi diventeranno talentuosi giocatori, ma stanno diventando dei piccoli artisti, perché le regalano dei bei disegni fatti durante le partite, no? Assolutamente, certo, mi regalano questi bellissimi disegni che loro fanno con dedizione, e mentre appunto io guardo la mia partita, ogni tanto escono da questo spazio giochi, vengono da me a farmi vedere questi disegni, a volte vengono fatti anche per le giocatrici stesse, quindi sicuramente insomma sono anche delle soddisfazioni, perché comunque insomma portiamo a casa anche le loro opere d'arte, quindi che noi conserviamo ovviamente. Assolutamente, nella loro cartelletta vengono conservati tutti, ecco. Venite a vedere le partite di pallavolo, perché è sempre un bellissimo spettacolo e i bimbi respirano comunque una bella aria di passione, di volontà, di grinta e di sano sport, quindi venite numerosi. Se posso fare questo appello, venite sempre al palazzetto a vedere queste partite di pallavolo. Abbiamo sentito l'entusiasmo di una tifosa, quindi dell'Asistel Novara. Ritorniamo da Massimo De Stefano, il direttore generale dell'Asistel Novara. Dottor De Stefano, progetto che quindi sembra riuscito. In futuro cosa dobbiamo aspettarci? Ci sono altre iniziative allo studio? L'idea del baby parking è la prima, che rientra un po' in un percorso che stiamo cercando di costruire in base alla disponibilità anche degli spazi, proprio di creare non la partita, ma l'evento pomeridiano, e quindi portare insieme delle attrazioni. Noi spesso durante la partita ci sono delle esibizioni, per esempio di corpi di danza o di balli o di bande musicali o dei mini piccoli spettacoli di 2-3 minuti che nei tempi morti della partita si svolgono, così come creare una serie anche di altri servizi ho già nominato anche le convenzioni con i ristoranti, in modo che davvero l'idea di far passare alla famiglia un pomeriggio intero, venire lì, lasciare un po' fuori tutte le varie problematiche e passare una bella giornata. Adesso vedremo per l'anno prossimo, dopo i primi esperimenti che abbiamo fatto in questi 2 anni, di metterne in atto delle altre. Il motto dice, dottor De Stefano, che l'unione fa la forza. Come ha reagito la Lega Femminile a questa vostra idea e sono allo studio progetti condivisi magari con le altre squadre della A1? No, la Lega in modo molto positivo, devo dire che quando l'ha saputo l'hanno anche promozionato sul proprio sito, ce ne è andato notizia, quindi è saputo anche all'esterno di questa nostra iniziativa. Devo dire che la Lega anche è sempre attiva su iniziative di questo tipo, ogni volta che la Lega per esempio organizza un evento, non so, le finali di Coppa Italia o Supercoppa, cerca sempre allo stesso modo di non far svolgere solo la partita ma di creare un vero e proprio evento, quindi si va un po' in sintonia, devo dire, anche con la Lega Pallavolo, che ci appoggia sempre in questi progetti. E c'è delle volte anche un interscambio, no? Di idee, nel senso, quando noi andiamo a vedere qualche evento della Lega prendiamo o rubiamo fra virgolette qualcosa, così come quando loro vengono da noi. Però devo dire che la pallavolo è uno sport che permette di far questo, nel senso che anche le tifoserie, noi spesso abbiamo le tifoserie negli stessi settori, difficilmente si vedono nei palazzetti come in altri sport le due tifoserie avverse completamente distinte o semmai anche separate da delle barriere. Nella pallavolo è uno sport non violento proprio perché non c'è neanche il contatto fisico in campo, e quindi questo permette di avere un ambiente molto sereno sugli spalti che poi dà la possibilità di fare delle iniziative di questo tipo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci come tutti i nostri programmi dal sito internet www.radio24.it. L'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima sempre alle 14.30, sabato alle 13.15. Vi ricordo anche l'appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.